Era l'estate del 1992, avevo 13 anni e facevo le mie prime grandi scelte, le prime grandi scelte della vita. La prima, quella scolastica. Quale scuola avrei scelto dopo le medie? Quale sarebbe stato il luogo in cui avrei attuato la grande trasformazione che ti fa passare da piccolo sgorbio con pochi peli a uomo semibarbuto? Con delle motivazioni che sono ancora un mistero insoluto nella mia mente decisi. Optai per il liceo scientifico, più esattamente il liceo scientifico Pasteur, periferia di Roma Nord. La mia scuola era stata costruita in un'area che era appartenuta all'Istituto Agrario Provinciale, un'oasi di verde e di pace, ma si trovava all'interno di un triangolo di edifici alquanto curioso. Sulla sinistra l'ospedale San Filippo Neri, con l'obitorio che è la parte più vicina alla scuola. Sulla destra il carcere minorile di Casal del Marmo. E di fronte una piccola valle dove dei vecchi immigrati abruzzesi tentano disperatamente di rimanere legati alle loro origini coltivando dei piccoli appezzamenti di terra che hanno delle pendenze simili ai Gran Premi della montagna del Tour de France. Beh, oltre la valle c'è il centro di igiene mentale Santa Maria della Pietà, il manicomio. Sembra un monito allo studio. Se non studi finirai in carcere o in disgrazia diventi matto o come diceva la mia vecchia zia farai una brutta fine. Il primo giorno di scuola me lo ricordo. E come si fa a dimenticare? È iniziato come tutti i primi giorni di scuola degli anni successivi, con la formazione delle classi. Stavo in mezzo a tutti questi ragazzini cercando di capire con chi fossi in classe e a un tratto ne vidi uno piccolo, in disparte, quasi timoroso. Capii poco dopo cosa temesse al momento della formazione della mia classe, la prima F. Dopo i nomi di Alberti, Baldini e Calbi, il segretario urlò nell'aria: Cappella! E ripeté. Cappella! Subito partirono risate e sghignazzi da tutte le parti. L'apice si raggiunse dalla curva dei quinti, quando si stagliarono nell'aria due domande. Chi è? Dove sta? Seguite da una sentenza lapidaria. Menamogli! Dunque Cappella stava in classe con me e diventammo buoni amici, le prime uscite insieme, le partite a pallone, tutto regolare. Ma Cappella continuava a subire gli effetti del suo cognome. Puntualmente, nei mesi successivi, durante la ricreazione, arrivavano i ragazzi più grandi ponendo a tutti la stessa domanda: Dove sta quello che si chiama Cappella? E lì scherzi, risate e prese in giro. Ma un giorno le cose cambiarono. Sì, cambiarono perché entrò in classe il Bocio. Il Bocio era uno dei più grandi della scuola, sia fisicamente che anagraficamente. A guardarlo gli davi 30-35 anni e ti sembrava alto 2 metri, 2 metri e mezzo. Beh. Di fronte a uno degli ennesimi soprusi, il Bocio sentenziò: Se lo toccate ancora, io tocco a voi. Freddo. Silenzio. Sì, perché il Bocio aveva parlato e la sentenza fu immediata, spariti. Poi si avvicinò a Cappella e a me, che stavamo lì increduli che quello che consideravamo un orco con deviazioni terroristiche ci avesse aiutato. Disse a Cappella che bisogna difendersi, che bisogna combattere per la propria dignità. Poi si avvicinò ancora. E ci fece una domanda. Regà, la conoscete la storia di Giorgiana? Noi rimanemmo in silenzio e lui iniziò a raccontare. Regà, Giorgiana era una ragazza del Pasteur, amica di scuola di mia madre. È lei che me l'ha raccontata sta storia, io la racconto ancora perché bisogna che la memoria rimanga. Roma, 1977, 12 maggio 1977. Avevano organizzato una manifestazione per l'anniversario della legge sul divorzio. E c'è da uno stanzacco dei ragazzi. Pure mia madre e Giorgiano e i suoi amici sarebbero dovuti star là. Solo che ci sarebbero state pure un sacco di guardie. Perché un mese prima, durante degli scontri in piazza, era morto un poliziotto. E il governo non voleva che ci fossero manifestazioni. Ma alle 13 di quel giorno, a Piazza Navona, il palco era pronto. C'erano turisti e curiosi che si aggiravano da tutte le parti. E nonostante dei poliziotti in borghese avessero sequestrato l'impianto d'amplificazione, nonostante tutto, gli organizzatori del corteo decisero che la cosa si sarebbe fatta comunque. Ma alle 14 le 7 vie d'accesso di Piazza Navona vennero chiuse. I giornalisti presenti iniziarono a fare domande, ma vennero presi e cacciati via. Intanto arrivavano ragazzi e militanti da tutte le parti e un gazebo che stava lì per la raccolta delle firme sul referendum venne preso e venne distrutto dalle guardie. Iniziarono i primi scontri, i primi arresti con lanci di lacrimogeni. E pochi parlamentari presenti cercarono di bloccare gli arresti, in particolare Mimmo Pinto, col cartellino da parlamentare in mano. Scusate, una piccola digressione su Mimmo Pinto. Così. Domenico Pinto è un politico italiano, fondatore dei disoccupati organizzati napoletani. Nel 1976 viene eletto alla Camera nelle liste di Democrazia Proletaria. Nel 79 viene rieletto alla Camera nelle liste del Partito Radicale, di cui è vice capogruppo alla Camera dall'82 all'83. Nel 1996, grazie all'accordo fra la lista Pannella Sgarbi e Forza Italia, ripresenta la sua candidatura, ma non viene eletto. Negli anni 2000 si avvicina ai DS e diventa presidente del Consorzio per i Rifiuti Napoli 3. Nel 2008 è indagato per reati ambientali. Viva la coerenza! Comunque, Domenico Pinto, col cartellino da parlamentare in mano, cercò di bloccare gli arresti, ma venne preso e malmenato pure lui, e messo lì, sul muro del Senato, che oramai sembrava una cella a cielo aperto, con gente comune, militanti e giornalisti. Ma un giornalista riesce a scappare, riesce ad entrare a Piazza Navona, e lì in fondo vide due poliziotti in borghese con la pistola d'altezza d'uomo. Li riconobbe perché lui lavorava in quella zona, e quelli erano poliziotti del commissariato lì vicino, non c'erano dubbi. Oramai la situazione era dilagata. Qui, a Piazza Campo dei Fiori, sembrava assista a una partita di pallone, con i ragazzi da una parte e le guardie dall'altra, e in mezzo Giordano Bruno a fa da arbitro, e in mezzo alle guardie c'è un timborghese con la pistola d'altezza d'uomo. Pure le piazze all'intorno vennero coinvolte. Piazza San Pantaleo, Largo Argentina. A Largo Argentina, la sede del Partito Radicale, era diventato un rifugio per molti. Ma una parte della manifestazione si era spostata. Era andata dall'altra parte del Tevere, su Ponte Garibaldi, a Piazza Belli, su Lungotevere, e lì la gente correva, correva e scappava, e chi cadeva veniva preso e tirato su per paura di essere schiacciato. Pure mia madre e Giorgiana e i suoi amici correvano. Solo che mia madre, per troppi lacrimogeni, si era persa ed era tornato indietro a cercare i suoi amici, ma per troppi lacrimogeni non li trovava, e a un certo punto vede una moto dei vigili. Benigni della municipale, con due gente in borghese con la pistola in mano. Si guardava intorno ma non c'erano, guardava dall'altra parte ma non li trovava, ma la sentiva voce. E urla. De Gianfranco. Gianfranco, il ragazzo di Giorgiana, stava lì per terra che la teneva stretta fra le sue braccia. L'avevano presa. L'avevano colpita. E un'ora dopo morì in ospedale. Le nostre idee non moriranno mai. Beh, regà, mia madre da quel giorno non c'è andata più alle manifestazioni, ma si è bannata a leggere la lapide che sta tra Lungotevere e Ponte Garibaldi. Capite perché bisogna ricordarla sta storia? E perché non si procede di fronte alla violenza. A questo punto dello spettacolo dovrebbe partire un audio che legge quelle parole che sono scritte su quelle lapide. Ma dato che sono delle parole di alcune compagne, per una giovane compagna morta, uccisa dallo Stato e dalla polizia, penso che sia più giusto che le venga a leggere qualcuna di voi. Se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio, se tu vivessi ancora, se io non fossi impotente di fronte al tuo assassinio, se la mia penna fosse un'arma vincente, se la mia paura esplodesse nelle piazze, coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola, se l'averti conosciuta diventasse la nostra forza, se i nostri fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita, nella nostra morte diventassero ghirlande della lotta di noi tutte, donne, se non sarebbero le parole a cercare ed affermare la vita, ma la vita stessa senza aggiungere altro. Questo era solo un piccolo pezzetto del mio spettacolo, quindi diciamo che è finito così. Voglio aggiungere solo una cosa rispetto all'altra manifestazione che si farà oggi. Una frase semplicissima che conosciamo tutti e che affermiamo in questo momento stando qui, che le strade sono di Diamo e che noi saremo antifascisti sempre. No!